Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, ogni giorno siamo bombardati da nuovi segni, oggetti che ci trasmettono l'idea del cambiamento. Cambiamo giorno per giorno e i simboli di questo cambiamento sono in tante abitudini nuove, tanti oggetti, tante cose, tanti tic che accompagnano la vita di ogni giorno, cambiando continuamente. Una rassegna dei segni che dominano l'Italia ad oggi, e ne sintetizzano anche alcune caratteristiche, è contenuta nel libro di Marco Belpoliti, Il tramezzino del dinosauro, 100 oggetti, comportamenti e manie della vita quotidiana, pubblicato da Guanda, 220 pagine, 13 euro. Belpoliti cataloga regolarmente sulla stampa, con brevissimi articoli, questa massa di segni fisici e non soltanto che dominano la nostra vita. E qui li ha raccolti questi interventi, partendo dalla considerazione che, leggo dal suo libro, nessun oggetto è più solo una cosa, ma contiene dentro di sé la forma stessa delle nostre relazioni sociali, le determina, le indirizza, le realizza. E infatti troviamo nell'elenco delle 100 cose che segnano il cambiamento del nostro tempo le voci più disparate, da Babbo Natale, quelli che si attaccano all'esterno delle case appunto sotto Natale, a Bianchetto, oppure a Marsupio, navigatore, orecchie, quelle che si attaccano sui caschi delle motociclette, fotoframe, piscina, post-it, eccetera, eccetera, eccetera. Chiediamo proprio all'autore Marco Belpoliti che cosa leghi fra di loro questi oggetti così disparati. Buongiorno a Marco Belpoliti. Buongiorno anche voi. Con che criteri li ha scelti questi 100 simboli della vita quotidiana? La casualità, le cose che capitavano sott'occhio giorno per giorno, legate ai vari mestieri della nostra vita, cioè di essere, che so, marito, figlio, padre, amico, professore, insomma, acquirente nei negozi, girando e girovagando per la città o per le città italiane. Ma da questa scelta è riuscito a far emergere, anche solo nella sua mente, un profilo di un italiano diverso rispetto a quello che conosciamo? Ma bisognerebbe che lei mi dicesse com'è questo italiano. Credo che ormai tutto si stia mescolando, agglutinando, e quindi il frullatore è diventato uno degli oggetti mediatici, mentali della nostra vita quotidiana. Io non credo che esista più l'italiano tipico, siamo tutti italiani locali e al tempo stesso globali, dato che ci capita di viaggiare, andare all'estero frequentemente o comunque di entrare in contatto con tante cose diverse da noi, insomma, non c'è più l'italiano standard. Qual è stato di questi 100 oggetti, comportamenti e manie quello che l'ha provocato la sorpresa maggiore? L'etilometro, dato che sotto Natale, insomma, si beve allegramente con amici, anche data la temperatura bassa, va bene che abbiamo avuto un inverno un po' calduccio, e dato che guido poco, dovendomi mettere in macchina per delle uscite serali con amici, cene, parenti vari, ho visto in una farmacia un etilometro che assomigliava a un oggettino strano, insomma, da appendere al portachiavi, e l'ho comprato a una cifra anche abbastanza rilevante. E ho fatto una prova a vedere se funzionava, sono entrato in un'enoteca, mi sono comprato una bottiglia di vino, un prosecco peraltro, insomma una sorta di aperitivo, ho bevuto e usato l'etilometro. Non funzionava assolutamente, si chiama soffio e ho seguito tutte le istruzioni e ho capito come avevano soffiato i soldi. Senta, ma tornando alla sua risposta riguardo all'italiano, per così dire, medio che non esiste più, mi pare che da questa rassegna emerga il fatto che non c'è neanche una differenza, una sostanziale differenza generazionale, cioè ormai si mischiano molto i comportamenti anche fra le generazioni, anche proprio nell'adozione di certi tic legati a oggetti o a comportamenti. Beh, direi che la condizione nostra, tipica in questa società che è sempre più americanizzata, nel bene e nel male, è di essere clienti, fondamentalmente siamo clienti. Una volta il cliente si era legato, diciamo così, al cliente politico, al mercato della politica, allo scambio dei favori, eccetera. Noi siamo clienti perché siamo acquirenti, e quindi direi c'è una sola generazione, questa, e che uno abbia 15 anni e ne abbia 70 è sempre comunque un cliente, al supermercato, nel negozio, in banca, insomma anche a scuola direi, ormai saremo clienti anche lì. L'unica differenza sono alcune piccole cose che ogni tanto capita, ad esempio una che non ho incluso, ma insomma mi piacerebbe includere, è la scomparsa dell'orologio nei ragazzi. Le mie figlie non portano più orologi Io quando ho fatto la cresima mi è stato regalato un orologio, quando mi sono diplomato un altro orologio, ed erano oggetti preziosi che ancora conservo e stanno nel moderneriato, insomma forse potrei ricavarne qualcosa vendendo questi orologi che mi sono stati regalati. Oggi non esistono più, in tasca c'è il cellulare, la mia figlia di mezzo, ho 12 anni, quando poi il cellulare sulla tavola vedo che ha nel display l'orologio elettronico, insomma, e quindi è scomparso. Ecco, anticipato l'ultima mia domanda relativa a qualche cosa che metterebbe oggi come non compreso in questo elenco, il 101esimo oggetto, l'orologio in fondo è un non oggetto, è sparito, qualche cosa che invece è presente oggi? Qualcosa da aggiungere a questa lista che invece è presente? Sì. Beh, le scatole, penso di scriverlo nelle prossime settimane, le scatole, di pubblicarlo sulla stampa come questi pezzi, le scatole della Chiquita, che sono straordinarie, le uso io per trasportare libri e cose, e ho notato che da qualche anno i venditori di mutande, insomma di oggetti vari comprati dai cinesi, insomma sempre capi d'abbigliamento nei negozi, ma soprattutto nei mercati che hanno ripreso alla grande in Italia, accatastano la roba da vendere nel loro camioncino usando queste meravigliose scatole della Chiquita. Non so se lei le conosce, sono scatole senza fondo, però si possono riutilizzare benissimo, soprattutto hanno dei manici e sono solidissime. Bene, faremo la prova, sperando che servano molto a trasportare i suoi libri. Spero che ce ne stiano tanti. Grazie a Marco Belpoliti, grazie, autore del Tramezzino e il dinosauro. Un'Italia, anzi una Sicilia ben diversa da quella descritta e sintetizzata nei 100 oggetti e comportamenti di Belpoliti, è quella descritta nel romanzo di Salvo Scibilia, Le male parole. L'autore è un pubblicitario, docente universitario, la casa editrice è Kowalski, 174 pagine, 12 euro. Ci troviamo con questo romanzo nella Catania degli anni 60. C'è un giovane avvocato che, per arrotondare, scrive discorsi per il suo principale che si presenta in una lista di destra alle elezioni, e poi ha uno strano incarico da parte di un ricco signore, quello di scrivere la biografia di questo signore, ma soltanto dopo aver ascoltato attentamente tutta la vita. Solo alla fine potrà scrivere la biografia commissionatagli. Naturalmente le storie dei due padroni, fra virgolette, dei due datori di lavoro si intrecceranno prima del colpo di scena perfettamente costruito. Il libro è solido, scritto con ironia e leggerezza, e descrive l'ambiente di una Catania di provincia dominata da eterni pettegolezzi, tra i quali anche la politica finisce col diventare, oltre che una lotta per il potere, una grande occasione di rivalsa per gelosie personali. Abbiamo parlato degli oggetti che segnano la nostra vita, notiamo la differenza tra l'Italia d'oggi e quella Italia descritta da Scibilia, con questa descrizione di un mito che approda nelle famiglie borghesi della Catania degli anni 60, il frigorifero, anzi, come si diceva allora, il frigidaire. Gli venne in mente suo zio Antonio, possessore raro e privilegiato di un frigidaire, marca Norge. Finalmente era finita la schiavitù della ghiacciaia. La felicità, pensava Ferdinando, deve essere qualcosa che non finisce mai, alimentata da una spina che nessuno può staccare. Il frigidaire, secondo la teoria di zio Antonio, aveva reinventato l'acqua fresca. E poco importava se c'era lo scompartimento apposito per le uova o per il burro. «E che siamo malati?» ripeteva lo zio Antonio ogni qualvolta qualcuno alludeva all'apposito vano riservato al misconosciuto grasso nordico. E così aveva stipato in ogni ordine di posti bottiglie d'acqua, solo d'acqua, sia d'estate che d'inverno, inibendo a chi che fosse di introdurre all'interno del suo forziere bianco qualunque altra cosa diversa dall'acqua. Davanti agli ospiti apriva il frigidaire con l'orgoglio di chi ammette con discrezione un estraneo alle meraviglie di un cavò privato e inaccessibile, stracolmo di gioielli. «Senti, senti che bellezza, niente è come l'acqua fresca», ripeteva immancabilmente. «Lo sai da quando ce l'ho messa? Neanche mezz'ora fa». E porgeva all'interlocutore di turno una bottiglia gelida da un litro. Seguiva il lungo silenzio di una bevuta omerica e poi l'immancabile «ah» di zio Antonio. Ristoro epocale e definitivo. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carrubba. Torniamo all'oggi ai suoi tic con il libro di John O'Farrell, Può avere effetti indesiderati, pubblicato da Mondadori, 306 pagine, 9,40 euro. L'autore è un autore televisivo che ha collaborato anche a scrivere i discorsi di Blair, anzi pare che gli scrivesse le battute. E questo libro, in certi punti veramente esilarante, tratta la tipica famiglia borghese britannica alle prese con il problema della scelta della scuola dei figli, figli che sono piccolissimi ma dei quali bisogna attentamente prefigurare il futuro, e quindi domina nelle scelte di questa famiglia e delle famiglie borghesi corrispondenti un'altissima competitività. Appena i bambini ragionano sono spediti a fare dei corsi di preparazione a scuole che dovranno frequentare dopo molti anni. Una famiglia addirittura considera seriamente l'ipotesi di far alzare il figlio alle 4:30 del mattino, fargli prendere l'Eurostar e mandarla a studiare a Calais. Per Molly, la figlia della narratrice del libro, non paiono esserci molte speranze all'esame di ammissione a una delle scuole più prestigiose alla quale l'hanno destinata i familiari. E allora la madre e il padre studiano uno stratagemma, e sarà la madre a mascherarsi da undicenne ad andare a superare, si spera, questo esame. E da qui nascono poi una serie di considerazioni e di situazioni, alcune veramente divertenti, altre più intonate a un clima buonista, ma insomma sempre molto molto divertenti, che fanno aprire gli occhi ai genitori più sensati su certe esagerazioni ed esasperazioni, soprattutto sull'ansia di poter prevedere e predisporre tutto nel destino dei propri figli. Sentite per esempio queste parole tratte da una delle ultime pagine del libro, quando ad Alice, che è la madre, la narratrice, finalmente si sono aperti gli occhi sulla possibilità di poter prefigurare completamente il destino dei propri figli. Il periodo in cui i tuoi figli dipendono completamente da te è una fase brevissima della vita. Sei convinta che durerà per sempre, ma in un batter d'occhio finisce. Controlli che abbiano abbottonato per bene il cappotto, ma non fai in tempo a sollevare lo sguardo che quel capitolo si è chiuso. Un giorno, mentre sei in cucina, suona il campanello. È tua figlia che torna da scuola e varca barcollante la soglia, con uno zaino da un quintale sulle spalle e la mente gravata da un milione di pensieri che non conoscerai mai. Allora sollevi lo sguardo verso le foto incorniciate sulle scale, scattate quando loro erano piccoli. Indossavano vestiti scelti da te e sedevano su altalene sulle quali li avevi sistemati tu, ridendo in modo incontrollato mentre li spingevi. È tutto finito. Basta. Lei è cresciuta. Quella fiducia incondizionata dipinta sul suo volto è svanita per sempre. È solo un ricordo. Le preoccupazioni, i potenziali trabocchetti lungo la strada erano tanti che a volte ci si dimenticava di godersi la vita. Le forti tensioni per superare le barriere di classe sono tipiche della società inglese. 5 anni nell'esercito e una notevole esperienza del mondo avevano ormai fatto scomparire tutte le romantiche idee sull'amore con le quali Barry aveva iniziato la sua vita. E cominciò a pensare, come tanti gentiluomini avevano fatto prima di lui, di sposare una donna ricca e di alto livello sociale. Questa era la voce dell'indimenticabile Romolo Valli, il narratore nell'edizione italiana del film di Stanley Kubrick, Barry Lyndon. E proprio Barry Lyndon è la riedizione che adesso vi propongo, il capolavoro di William Thackeray, è pubblicato da Rizzoli nella traduzione di Aldo Valori, 368 pagine, 9,50 euro. Ripeto, un grande classico della letteratura inglese, forse il primo capolavoro dell'autore, che era nato in India nel 1811 e sarebbe poi morto nel 1863. Continuiamo ad esplorare la materia dell'ironia nella quale ci siamo addentrati con il libro di O'Farrell, con due volumi che ci fanno sperimentare l'ironia degli antichi e dei filosofi. Il primo è Come ridevano gli antichi, curato da Tommaso Braccini e pubblicato al Melangolo, 158 pagine, 10 euro. Si tratta di una raccolta di autentiche barzellette, 270 per l'esattezza, che erano state raccolte in un'opera chiamata Filogelos, amico del riso, divisa in in capitoli dedicati ai vari tipi umani, dai sapienti agli abitanti di Kuma, agli invidiosi e tanti altri. Sentiamone un paio di queste barzellette. Un pigro aveva prestato un denaro ad un altro pigro. Una volta che lo incontrò, gli chiedeva di saldare il debito. Quando quello disse: «Allunga la mano, aprimi la scarsella e prendi il denaro», l'altro ribatté: «Va pure, non mi devi niente». Una volta i cumani attendevano il ritorno di un loro onorevole amico e volevano omaggiarlo con l'offerta di acqua pura nel bagno. Siccome avevano una sola vasca, dopo averla riempita di acqua calda pulita, vi posero in mezzo una grata, per poterne conservare incontaminata una metà per l'amico atteso. L'altro libro è di Pedro González Calero, che si presenta come ex spazzino, archivista, documentarista, professore di filosofia e burattinaio frustrato. Vive a Madrid, repubblicano e ateo. E ha pubblicato con Ponte alle Grazie Rido Ergo Sum, una passeggiata nella storia del pensiero attraverso le battute e gli aneddoti dei grandi filosofi. 192 pagine, 11 euro, tradotto da Claudia Marseguerra. Si tratta di una serie di episodi, dalla filosofia antica a quella contemporanea, relativi a battute ed episodi curiosi di cui sono protagonisti grandi filosofi o che sono tratti dalle loro opere. Sentite per esempio queste righe dedicate a Nietzsche. Nietzsche apprezzava gli animali. I suoi libri sono infatti pieni di allusioni simboliche agli animali, quasi quanto disprezzava la maggior parte degli uomini, soprattutto i suoi contemporanei. Sappiamo che pochi giorni prima di perdere la ragione abbracciò in lacrime il collo di un cavallo da tiro che era stato frustato senza pietà da un cocchiere. Non stupisce, pertanto, che in uno dei suoi aforismi sentenziasse, contro la teoria di Darwin, «le scimmie sono troppo buone perché l'uomo possa discendere da loro». E a proposito di Darwin e di Nietzsche, segnalo che del primo è uscito Il viaggio di un naturalista intorno al mondo, è pubblicato nell'edizione completa da Newton Compton, 510 pagine, 8 euro, tradotto da Antonio Santilli. Si tratta della cronaca del lungo viaggio che durò quasi 5 anni a bordo del famoso brigantino Beagle, che determinò la svolta evoluzionista di Darwin, e quindi un viaggio affascinante soprattutto nel Sud America, ma anche l'introduzione a uno scienziato che ha dato una svolta alla scienza moderna. Di Nietzsche sono uscite di recente le Lettere da Torino, pubblicate da Delphi, 270 pagine, 15 euro, tradotte da Vivetta Vivarelli. Sono le lettere che il grande filosofo scrisse appunto a Torino, dove Nietzsche soggiornò nel 1888. Arrivò il 5 aprile, considerò questa città molto bella, la definì dignitosa e severa, un luogo classico anche per i piedi come per gli occhi. Che sicurezza, che pavimentazione. Quell'anno, il 1888, fu un anno importante per Nietzsche, ricorda Giuliano Campione nell'introduzione. Sarà infatti un anno fatale nel quale scrive Ecce Homo, ma anche l'anno nel quale proprio a Torino si rivela la sua follia, che già si manifesta in queste ultime lettere, per esempio quella che scrive attorno al 4 gennaio 1889, niente di meno che a Umberto I, re d'Italia: «Al mio amato figlio Umberto, la mia pace sia con te, martedì verrò a Roma e voglio vederti a fianco di sua santità il Papa», firmato il crocifisso. Un altro titolo per accostarsi a un grande pensatore in maniera abbastanza insolita è il libro di Mario Pancera, che è un giornalista e scrittore che ha pubblicato con Rubbettino Le donne di Marx, 108 pagine, 10 euro. Furono diverse le donne di Marx: la madre Henriette, la moglie Jenny, tre figlie sopravvissute, Jennichen, Laura e Tussi, e una governante, Lenchen, dalla quale lo stesso Marx ebbe un figlio che peraltro avrebbe adottato il nome della famiglia che lo aveva appunto adottato. E in questo libro troviamo i ritratti di queste donne che ci aiutano a entrare nella vita quotidiana di un grande, la cui esistenza fu peraltro segnata da molte difficoltà e sfortune che si riflettono nelle vite dei familiari. Jennichen, per esempio, ebbe un matrimonio sfortunato, dovette a un certo punto fare la cameriera, si ammalò e morì in giovanissima età. Le altre due figlie si suicidarono. Dice Pancera: conoscere i personaggi e avvicinarsi alla storia, e quindi questo libro ci riporta non soltanto al personaggio Marx, ma anche ai primi passi, ai primi vagiti, alle prime forme organizzative del movimento che da Marx avrebbe preso il nome. Abbiamo parlato di Torino, qui si conclude oggi la manifestazione Portici di Carta, che rappresenta la libreria più lunga del mondo costruita nel centro di Torino. Infatti quasi 2 chilometri dei portici di Torino sono dedicati ancora fino a oggi appunto alla vendita dei libri. Ci sono 120 librerie, una quindicina di tratti tematici, tutto questo sotto i portici di Via Roma, Piazza San Carlo, Piazza Carlo Felice. Per restare invece al tema dei viaggi, segnalo che a Roma si conclude oggi il Festival della Letteratura di Viaggio, in particolare dalle 16 alle 20:30 al Palazzo delle Esposizioni ha luogo l'omaggio a Folco Quilici con una retrospettiva delle sue pellicole, e poi a Villa Celimontana a partire dalle 17 un incontro con autori ed editori intitolato Sulla strada, la letteratura di viaggio in Italia, e poi alle 19 un omaggio a Tahar Ben Jelloun. E a questo punto il confettino. Vi propongo oggi 1001 storie, è pubblicato da San Paolo, l'autrice e disegnatrice Lila Prapp, è tradotto da Martina Gatto Ronchero, 12,50 €. Si tratta di una sorta di labirinto fatto di storie nel quale il piccolo lettore può scegliere il percorso che preferisce e quindi ritagliarsi una vicenda su misura propria. E con questo ringrazio Laura Marchesi in redazione, Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica con libro chiocciola radio24.it. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.